era lì, alle tante novità. Era lì, appetibile realtà. Mi fermai, salì il deficiente, autostop. Io con lui, una qualche affinità. Lui con me, con la sua fragilità. Lui con me, con la sua complessità. Mi parlo anch'io stesso viaggio, autostop, autentico love, l'ultimo, romantico mood. Lui con me, con la sua identità. Io con lui, con le mie finalità. Mi guardò, ero già apertamente autostop, autentico love. L'ultimo, romantico mood, oh mood, l'unico, romantico love, l'ultimo, autentico mood. Auto.